È una campagna internazionale che poi ha un suo sviluppo specifico anche qui in Italia. In Italia chiamiamo campagna di obiezione alla guerra. È una campagna a livello europeo per sostenere appunto in Ucraina, in Bielorussia e in Russia quei ragazzi che vogliono difendere i loro ideali ma senza le armi. Vogliono difendere la propria libertà e del proprio paese ma senza arruolare. Vogliono essere solidali con le proprie popolazioni ma senza essere uno strumento di guerra, cioè sono gli obiettori di coscienza o i remitenti alla leva o i disertori. Noi sosteniamo tutti questi ragazzi perché l'unico modo di non fare la guerra è proprio quello di non parteciparvi. Quindi questa campagna internazionale chiede innanzitutto alle istituzioni europee di considerare come rifugiati, come profughi, quindi di dare protezione a questi giovani, così come avviene in tutti i paesi europei. L'obiezione di coscienza è uno dei fondamenti dei diritti umani ed è una richiesta per poter accedere in Europa, per poter entrare a far parte dell'Unione Europea. Una delle richieste è proprio quella di regolamentare il principio fondamentale dell'obiezione di coscienza, cioè del rifiuto morale, religioso, politico dell'esercito e di fare un servizio civile alternativo. Questo non è possibile per i ragazzi dell'Ucraina. Ad esempio, sono più di 5.000 da febbraio ad oggi le domande, le richieste che i giovani hanno presentato, ma a loro non viene data risposta, non c'è più la possibilità del servizio civile alternativo che prima c'era, ma è stato sospeso, abolito con la legge marziale, e a questi ragazzi viene impedito di uscire dal loro paese perché, come è noto, c'è la legge marziale, prevede il richiamo di tutti i maschi dai 18 ai 60 anni, è proibito abbandonare l'Ucraina. Peggio ancora la situazione per i giovani russi, è proprio di ieri l'annuncio di Putin, non solo di richiamare anche i riservisti, ma che è stata inasprita la pena per chi rifiuta la chiamata e quindi la condanna è di dai 10 ai 15 anni, quindi sono situazioni pesantissime e noi chiediamo che l'Unione Europea e i governi, in particolare il nostro italiano, si facciano parte attiva per dare protezione e quindi ospitare e quindi dare riconoscimento politico a questi giovani e accoglierli nei nostri paesi. Questa non è l'unica iniziativa pacifista, lunedì prossimo partirà una nuova carovana Stop the War Now. Sì, la quarta carovana, questa ha una caratteristica di novità perché oltre a essere una carovana di tipo umanitario, questa volta ha anche un carattere politico, perché è una carovana che andrà ad incontrare per creare accordi di partenariato tra le nostre associazioni pacifiste non violente e le associazioni della società civile ucraina che sostengono gli obiettori di coscienza e quindi i gruppi non violenti, il movimento pacifista ucraino e tutte quelle associazioni della società civile che si sono impegnate a lavorare nel peace building, cioè nella formazione, addestramento, sostegno all'educazione non violenta, alla risoluzione non violenta dei conflitti e al rispetto dei diritti umani. Incontreremo questi gruppi di studenti universitari e in particolare andiamo a sostenere il movimento pacifista ucraino che in questo momento è impegnato a sostenere insomma alcuni processi agli obiettori di coscienza. In particolare c'è un processo che è anche diventato un caso un po' mediatico in Ucraina a Ruslan, un nostro amico obiettore, che è accusato anche di alto tradimento perché ha fatto propaganda pacifista e ha invitato a non partecipare alla guerra, ma questo già lui lo fece già nel 2014, momento delle prime tensioni e degli scontri nel Donbass. Proprio in questi giorni si terrà un'udienza del suo processo, anche in questo caso la condanna che è stata chiesta è pesantissima, si parla di 15 anni di reclusione e quindi c'è proprio bisogno di un'attenzione internazionale, quindi andiamo anche per aprire i riflettori su queste situazioni, chiarendo che la posizione di questi ragazzi e di questi giovani non sono diciamo filo Putin o amici di Putin, ovviamente sono ucraini che vogliono battersi per la sulla libertà del loro paese, che condannano assolutamente l'invasione, l'aggressione che c'è stata in Ucraina da parte della Russia di Putin e dell'esercito di Putin, ma vogliono uscire dalla spirale della guerra e quindi cercare una strada alternativa di resistenza non violenta. Questi sono tutti gruppi che partecipano alla resistenza ucraina, ma vogliono farlo nel rispetto dei principi fondamentali della non violenza, quindi non partecipando alla guerra, non diventando responsabili dell'escalation alla quale purtroppo stiamo assistendo in maniera davvero grave, drammatica e molto preoccupante.